Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Un abuso al giorno, la trasmissione che quotidianamente, ormai da oltre un anno, vi allieta o forse vi disturba, questo io non lo so. Ogni giorno dalle 6.45 alle 7 in replica alle 20.45, ma stando soltanto ai dati di ascolto mi pare che comunque gradiate abbastanza i temi che noi affrontiamo, che sono sempre legati agli abusi e alle violazioni dei diritti. Allora, oggi parliamo di multiproprietà. Intorno agli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, la multiproprietà andava moltissimo di moda. Ci sono stati ottimi affari, era un modo ed è tuttora un modo per trascorrere delle vacanze o anche dei periodi nel corso dell'anno in maniera diversa dalla solita, vale a dire senza acquistare la totale proprietà dell'immobile. Ma diciamo anche che le multiproprietà sono state soggette, hanno dato anzi vita ad una serie anche di truffe, di malintesi, comunque di situazioni poco chiare. La multiproprietà poi ha avuto una fase di declino, fatto sta che ancora oggi ci sono molti riflessi di quella che è una situazione appunto che ormai ha più di 20 anni. Riflessi che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero. Perché dico dall'estero? Perché noi abbiamo ricevuto una bella mail, bella e sintetica nell'esposizione mail da parte di una nostra radioascoltatrice di Cavriago, che è in provincia di Reggio Emilia, si chiama Nives Bonato, e la sua storia è una storia che porta l'Italia ad avvicinarsi alla Spagna, perché la multiproprietà era stata proprio acquistata alla fine del 93 a Ibiza, località turistica molto molto famosa. E io do il buongiorno e il benvenuto alla signora Nives Bonato. Buongiorno. Allora, signora Bonato, può raccontarci un po' la sua storia? Dicevo prima che avete acquistato, lei e suo marito, questa multiproprietà in Spagna per passare 2 settimane ad agosto ad Ibiza, è corretto, no? Sì. Ecco, e voi avete sfruttato per molti anni questa possibilità. Noi abbiamo sfruttato la nostra multiproprietà fino al 1999. Quando mio marito purtroppo ha avuto una malattia e non abbiamo più potuto viaggiare, abbiamo smesso di frequentare la nostra multiproprietà. Mio marito non l'ha mai voluta affittare e noi non ci siamo più andati. Ecco, quindi dal 1999 lei non si è più recata con suo marito ad Ibiza per passare le 2 settimane, né ha affittato, diciamo così, il suo spazio all'interno di questa proprietà immobiliare. Uh-huh. Poi però scopre che... Nel frattempo, ecco, io devo aggiungere un'altra cosa, è cambiato il proprietario, è venuta una società tedesca, sì, ma noi stavamo bene, non ci importava chi era il proprietario, bensì solamente di godere di quello che era la nostra vacanza, e quindi non ci abbiamo più fatto caso. D'accordo. Sono passati degli anni. Nel 2007 mio marito è deceduto. E lei scopre che suo marito dal 2004 al momento in cui purtroppo è deceduto, che cosa era successo? Non aveva più pagato la manutenzione. Benissimo, perché lei e dice... Noi comunque pagavamo, anche non andando, come era negli accordi, la manutenzione. Ecco, a questo punto lei scopre che la manutenzione diventava però, il pagamento della quota di manutenzione diventava però una condizione fondamentale per mantenere il diritto alla multiproprietà in Spagna, o sbaglio? Sì, anche perché poi nel contratto che io avevo c'era scritto che se uno non pagava la manutenzione avrebbe dovuto pagare poi una penale del 20%. Sulla cifra non versata. Quindi quando mi hanno scritto ho detto pagheremo la penale, certo, appunto, e basta. Ecco, e questo ho insistito moltissimo dall'agosto fino adesso di sapere quant'era questa quota di manutenzione che avrei dovuto pagare, la penale ed eventuali spese di successione. Mentre invece non le hanno dato una risposta. Mi hanno risposto in giugno dicendomi che io non avevo pagato la quota di manutenzione e avevo perso il diritto alla multiproprietà. Ecco, però mi sembra una cosa molto importante, perché poi sentiremo un avvocato, che vorrei sottolineare. Nel contratto che lei ha però c'è scritto che chi non paga la quota di manutenzione non è che perde il diritto alla multiproprietà, ma deve pagare una penale, un 20% in più. Quindi chiaramente non c'è scritto da nessuna parte che lei avrebbe perso il diritto, giusto? No, anche perché c'è un'altra cosa. Prego. Noi non ho trovato il rogito che ci doveva essere, e io ho scritto alla società di Ibiza dicendo: per favore, dov'è che io posso trovare questo rogito? A chi mi devo rivolgere? Certo. Hanno fatto finta di non capire. Tedeschi, proprio maccheronico, ma neanche, non mi hanno neanche risposto. Ho capito. E ho mandato raccomandate, fax, voglio dire, fax. Certo. È un documento ufficiale, lei lo sa benissimo. Certo, no, e comunque niente, è così. Ecco, ultimamente lei ha visto la mail che le ho mandato con i documenti, è venuto fuori questa cosa qui. Ma non si è più parlato né di rogito né di niente, solo che io che era diventata loro la pratica. Assolutamente. Allora io direi, il caso è chiarissimo, mi sembra abbastanza confuso invece proprio nelle norme che lo regolano, nei contratti che lei ha sottoscritto e quant'altro. Allora, per capirne di più, io ho chiamato l'avvocato Giovanni Franchi, che è il coordinatore nazionale della consulta legale di Conf Consumatori. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Allora, lei ha sentito la storia, ci dia la sua interpretazione. Allora, dopo aver sentito la storia, devo anticipare in primo luogo un aspetto. La multiproprietà è in effetti un istituto piuttosto nuovo, parlo nuovo per i giuristi, non certo per chi si occupa della questione, talmente nuovo che è stato regolato con una normativa comunitaria, la numero 9447, che è stata recepita, anche se con alcune differenze, da tutti gli Stati dell'Unione Europea. L'Italia la recepì con una legge, la numero 427 del 98, che è stata oggi introdotta nel codice del consumo. Quindi oggi la materia per noi è regolata dal codice del consumo, e tutti coloro che acquistano multiproprietà, molto spesso in Spagna, perché si tratta di multiproprietà alle Canarie o in zona certo. limitrofe, sono regolate dal codice del consumo. Quindi questo oggi, ma per il pregresso, come nel caso allora, che stiamo trattando? Per il pregresso, nel caso di acquisti effettuati prima, comunque la multiproprietà sarebbe regolata sempre dal codice del consumo per tutto ciò che si sviluppa. Ma nel caso di specie, invece, la signora ha acquistato direttamente da una società spagnola, ha fatto rogito con la società spagnola, ergo la multiproprietà della signora è disciplinata dalla legge spagnola, che peraltro si deve essere per forza, perché la Spagna fa parte dell'Unione Europea, adeguata alla direttiva comunitaria. Ecco, quindi anche lì valgono le regole che valgono qui, con un come dire, con una valenza retroattiva, mi pare di capire. Con una valenza retroattiva, e ci sono fatte per quelle norme di carattere, se al tempo la legge diceva basta un contratto formale, oggi la legge dice occorre un atto scritto, non si torna indietro, bastava il contratto formale. Ecco, ma la signora non trova il rogito, ecco. E comunque nel suo contratto c'è scritto che doveva pagare una penale, non che avrebbe perso la multiproprietà. Però alla normativa, come dicevo, sarebbe opportuno un avvocato spagnolo, perché anche se la Confconsumatori sta iniziando a la Confconsumatori, dico la Confconsumatori certo. per mia esperienza, ma come tutte le associazioni consumeristiche, a collegarsi in ambito comunitario, perché ormai il diritto va oltre i confini d'Italia e siamo nell'ambito della comunità europea. Comunque, per quello che posso dire, e potrei anche sbagliarmi non conoscendo il diritto spagnolo, la signora, non c'è dubbio che facendo questo contratto di cosiddetta multiproprietà è diventata proprietaria di una quota, perché la multiproprietà in che cosa si sostanzia? Nella comproprietà di una quota il cui godimento è turnario, nel senso che la signora è comproprietaria di una quota e poteva goderla in un certo periodo. Quindi lei mi sta dicendo che il fatto che non abbia pagato la manutenzione non ha questo qui non è causa necessaria o sufficiente per farle perdere il diritto. No, perché se io divento proprietario di un bene, ecco, se lei diventa comproprietario di un condominio, non possono mica dirle poi che ha perso la comproprietà perché non ha pagato la quota condominiale. Oppure perché non ha pagato la tassa sui rifiuti, ad esempio, esatto, no? Potranno soltanto agire nei suoi confronti per il pagamento di tutto questo. Benissimo, e quindi un'ultima domanda secca, una risposta molto secca perché il tempo si avvia a conclusione. Sì, a chi si deve rivolgere a questo punto la nostra radioascoltatrice? Quanti, come lei, si trovano nelle stesse identiche condizioni? Ecco, io devo dire, anche per l'esperienza che ho, sarebbe il caso che la signora si rivolgesse a un'associazione consumeristica. Oh, benissimo. Perché dopo verrà fatta la lettera diretta alla società proprietaria e si potrà sapere come stanno le cose in maniera chiara, perché le associazioni consumeristiche, stavo dicendo noi, perché in effetti ormai mi sento più un consumerista che non un avvocato, poi riusciamo a chiarire. Ecco, la signora Bonato Nives ovviamente può contattare qualunque associazione consumeristica, non sponsorizziamo assolutamente nessuno, abbiamo chiamato a rotazione l'avvocato Franchi di Consumatori proprio perché cerchiamo di sentirle tutte le associazioni quando trattiamo temi appunto di abusi nei confronti dei diritti dei consumatori. Quindi io ringrazio Nives Bonato, ringrazio l'avvocato Franchi in regia Valeria Bernardi e in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.